Mario. Giocare. Pagare. È fissato. Più. Come più? Più. È di più del pagare. Forza, forza cosa? Su, su, contrario. Ah, contrario. Giù. Sotto. Giù. Giù. Avanti però. Pagare. Pagare. Tu devi pagare di più. Tassa. Tassa. No. La tassa no. Pagare. Sì. La tassa. Sì. Forza. Forza paga. Tassa. Tassa. Ecco. Tassa. Tasse. Ecco, tasse. Pagare. Pagare. Pagare. Te lo rompi, Drago. Cioè tu. Ma lo rompi, non ci sai giocare. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un programma sponsorizzato da Wunderwaffer, la merendina ideale per tutti quelli che giocano in borsa. Per tutti sì, quelli non funziona, che... cioè stiamo facendo un casino, Drago, di generi, perché non puoi fare la radio sperimentale e lo sponsor della merendina, la radio vendita, allora, cioè product placement. Cominciamo da, scusami, intanto ti do un pugno in faccia infatti, e poi cominciamo a agitare le braccia con calma. Allora, innanzitutto, largo allo sponsor. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Oh, allora, Wunderwaffer, un wafer. Vogliamo parlare. Diciamo cos'è? Il wafer è una specie di... Quindi voi sapete cos'è un wafer, no? Ma il napolitaner. Ma voi devi pubblico. Dirlo tu, ma non hai la risposta. Allora, non è che ti telefono Wunderwaffer adesso, sì, lo so. Cioè, è tipo un napolitaner, tipo un presidente della Repubblica. Ma però... già stai facendo casino, Drago. Lo so. È un wafer con lo zenzero. Cioè, senti, c'è il modello con lo zenzero. Sì, ma senti, Kappa, scusa. C'è il modello... Queste cose con... di solito, non è che le fanno proprio quelli che fanno il programma. Dovremmo trovare il materiale. No, tipo trovare una specie di avatar. No, come Fazio ha la Lagerbach che fa queste cose qui, anche noi dovremmo avere Filippa, Filippa fa solo sì, quello sì. Anche noi dovremmo avere qualcuno che ci sostituisce durante queste cose di pubblicità, perché io non sono capace a farlo. Dovremmo fare che uno dei due lo fa e l'altro no. Indovina un po' chi lo fa. E ora, bambini, ricreazione. Madonna mia, che roba. Cosa c'è? Mamma, che stanchezza. Bambino Alberto. Come ma mamma che stanchezza. Sono stravolto. Cosa hai fatto? Ieri ho fatto laboratorio, Teatrale, cosa fai? Ma no, laboratorio. Laboratorio falegname, carpenteria. Laboratorio, ma no, falegname. Laboratorio su Svizzera. In Svizzera? In Svizzera. C'è qualcosa che non va. No, è bellissima la Svizzera, lo sai, allora, che arriva. Calma, quindi... laboratorio in Svizzera. Allora, ogni tanto i miei genitori sì. mi caricano in macchina senza spiegazioni. E mi portano in Svizzera. Per dire la verità è un posto bellissimo. Vedi. Verde, le montagne, verde, le mucche, tutte quelle robe tipiche. Tutto in mezzo al verde. E lì in mezzo al verde c'è il laboratorio. Scusa, ma non si capisce niente. Sembra una tana del lupo, no? Degli anni 60. Sì. Cosa stai dicendo? La tana del lupo. Cioè? La tana del lupo, là, nella foresta di là all'est. All'est dove? La Svizzera, vabbè, dai, che laboratorio? Non so in realtà bene di cosa si tratta, però attualmente è il mio modo di contribuire al sostentamento della famiglia, no? Che i miei dicono che io mi devo... Vabbè, allora, il laboratorio, in mezzo alle montagne, il mezzo di sostentamento, si capisce niente. Spiegati un po', no? Allora, i miei dicono, allora, tu qui c'è la crisi... Anche tu devi imparare a mantenerti, no? Lavorare non puoi lavorare perché non sai fare niente. E quindi? Quindi manualmente sei zero. E quindi andate in Svizzera. Quindi mi portano in Svizzera, guarda, fai il laboratorio. Dico, vabbè. Laboratorio. E cioè, ma com'è sto laboratorio? No, niente, allora, praticamente io devo stare fermo sul lettino, no? Sì. C'è la TV, La TV in alto, lettino. A muro. C'è una l'iPad. Come l'iPad? Touchpad? No, il wall. Wall, sì. Vabbè, e tu nel lettino? C'è la televisione al plasma a parete, no? Io sto sul lettino, è sempre accesa, Sì, e io te lo comando. Ma cosa fai sul lettino? Infatti. E guardi i cartoni animati. Ho capito. Tutto il no. tempo. Nel frattempo loro mi fanno la flebo, no? Ma come la flebo? Ma bambino Alberto. Scusa, ma cos'è? Ma fai la cavia per un'azienda farmaceutica in Svizzera? Ma Alberto. Okay. Come chi? Cosa? No, ma non capisce, lascia per niente. Ma allora, scusa, dopo la flebo, come ti senti? Ma che domande, dipende, no? Appunto, dipende, no? Cioè, sì. No, come dipende? A volte non succede niente, passo la giornata a vedere i cartoni e vado a casa. Quando c'è il placebo, capito? A volte capita che mi riempio di bolle, no? Che mi prudono sulla pelle. Ah, ecco. A volte mi sembra di stare in una bolla che prude. La sensazione è difficile da spiegare. Tu sei dentro la bolla che prude, ti gratti e poi ti svegli. In ogni caso, vada come vada, i miei genitori sono contenti che io sto lì. Eh sì, perché ogni flebo che mi fanno sono 150 euro, eh? Sì, ho capito, sì. Ma è disumano, ma devi telefonare a telefono azzurro, sì, quella roba lì. Non è una bella ma perché? Cosa. A me come piace. Perché? Come, ti piace fare la cavia? Ah no, no, niente, la cavia non capisce la questione. A me piace stare sul letto tutto il giorno a guardare i cartoni. Sì, ma ti fanno la flebo intanto. Vabbè, allora, ma come? La fanno loro, io non faccio niente, mica faccio fatica. Ho capito, ma non è questione di fatica, è questione che la flebo magari fa male, no? È la fatica, eh? È la fatica. Ieri, ma quale Gildo, fatica? Questa è da Gildo, no? Questo e ieri c'era anche Gildo con me in laboratorio. Gildo. Il laboratorio. A lui, lui non ha fatto la flebo, no. Gli hanno fatto un'iniezione, una sola. Senza TV, di sangue di topo. Ma cosa vuol dire sangue di topo? Non sta bene, ma te l'ho detto, non sta bene. Ma forse sarà a delirare. Ma non sarà mica l'effetto della flebo. Forse sì. Allora, sto sangue di topo è un esperimento per vedere se Gildo è resistente alle malattie dei topi, no? Vero, Gildo? Vabbè, ma le malattie dei topi, ma scusa, non dovrebbe essere il contrario, sperimentare sui topi. Vabbè, se gli Gildo vengono delle cosa vuoi che succeda? Gildo? Ma Gildo, scusa, o esiste o... Vabbè, comunque, di ai tuoi genitori, bambino Alberto, che se vogliono mandarti a laboratorio, ti mandino a laboratorio teatrale, dove puoi imparare tante cose, non lì a farti fare le flebo, insomma. Vabbè, allora, due cose. Primo, c'è la TV lì? Sì, certamente. Può darsi anche di sì, non lo so, ma non è quello che si va a fare. E i 150 euro? No, anzi, li paghi, però impari a fare la TV. No? Scusate, ma io posso stare tutto il giorno sul lettino, o il lettino che si piega anche, posso stare su, giù, su e giù, mi viene un po' il sonnellino, devo fare il sonnellino, poi su, sembra la TV accesa, capito? Sì, ho capito. E allora, dal laboratorio teatrale, tirare fuori 150 euro, magari anche di più, per imparare a fare una roba che ancora non ho capito. Il teatro, ma l'attore, sì. Allora, a recitare. Ma cosa devo recitare? Tutte le volte che viene a fare gli spettacoli con noi è un disastro. Tu cosa ne sai che non ci sei? Adesso cosa? Allora! Vedi, dici che non ce l'hai. Tu ci sei! Un po' di lucidità. Tu adesso ci sei perché sono coloro che ti vedono. Ma, no, sì. Ma non è vero. No. Tu preferisci flebo? Flebo! Flebo, no? Flebo! Sangue di topo. Sangue di topo. Sangue di topo! Sì, ma senza la TV tu. Senza no, io guardo i cartoni tutto il giorno. Ah, ecco. Senti, Gino, ho pensato, visto che questi due lo fanno per... Ma magari c'hanno ragione. Che non è che puta a caso queste flebo magari sono... tossiche? Tossiche! Che mi fanno male, no? Male! Va bene i cartoni. Che ma magari mi ammalo. Allora, se tu vieni vieni su in Svizzera... In Svizzera! Se vieni su in Svizzera, vieni con i miei, tutto spezzato. Tutto spezzato! Tu vieni sul lettino, di fianco c'è una specie di cuccia, di... una roba... il pagliericcio. Tu ti metti sul pagliericcio con la flebo, no? Ti fanno ste flebo gratis, eh? Gratis! Mica paghi! Quindi a te ti fanno le flebo. Vabbè. E io guardo i cartoni, no? Ma anche tu ogni tanto puoi sbirciare, anche se tu sei girato dall'altra parte. Però senti l'audio, no? C'è Homer, senti... E tu dici, questo è Homer? Homer! E io non te lo dico. C'è Grattacchè che è fighetto. Grattacchè che è fighetto! Eh no! Ecco, lì guardo io, tu fai la flebo. È il sangue di topo, no? Sangue di topo, eh? Sono proprio contento di vedere che la Roma, la squadra della Roma, continua a essere calcio, la squadra assolutamente più adatta. Ma parlare di calcio? Non parliamo mai di macchine, dobbiamo parlare di calcio. Beh, di macchine ne parliamo fin troppo. Ma parli di Marchione, non di macchine. Le macchine sono la stessa roba. Invece tutti sanno che qui a Chiedosino la nostra squadra del cuore è la Roma, perché è la squadra più infantile d'Italia. Ah, sì? Vogliamo ricordare, che ne so, proprio il fatto stesso che hanno Totti come simbolo, e voglio dire, già quello è importante, il pupone. A me piace, no? Totti. Beh, un pupone, quindi questo vorrà dire qualcosa. Vogliamo ricordare la reazione quasi isterica che ha la Roma ogni volta che deve fare una partita importante contro una squadra forte? Vogliamo ricordare che gli ultimi due allenatori sono due allenatori abituati a lavorare con i bambini? Ma se rispondessi no, vogliamo ricordare l'ultima cosa che è successa? E cioè che la Sensi ha venduto la società a questi americani, è arrivato James Pallotta dagli Stati Uniti, si è presentato, sono il nuovo presidente, faremo tutto bene, io non ho paura di niente, ha bevuto il prosecco e si è buttato di spalle in piscina, vestito così. A gennaio. buio. Sì, ma erano indoor. Ah, perché sai che Toso invece si butta il primo dell'anno con altri 50, magari un giorno, non so come dirli, arditi. Pensa se gli venisse una nel lago di Garda, bella congestione. Ma forse gli è venuta. Allora chiedo asilo. Chiocciola, ma che chiocciola? Et chiocciola, et, e no, così sembra. Chiedo asilo, chiocciola, no, chiedo asilo, et, ma qual è et, Alberto? Et è la chiocciola, no? Appunto, fai prima di dire chiocciola. No, a parte che è più lungo, no? Et chiocciola, chiedo asilo, et chiocciola, ma no, chiedo asilo, o et, o chiocciola, ma siccome chiocciola l'abbiamo escluso, per motivi che a te sono scuri, facciamo et, quindi vai, no? Capito? Chiaro, no? Magari rispondere va bene. E non è che ci abbiamo sotto. No, non ho capito. È che mi camera qua sotto, che siamo su. Non ho capito. Hai capito un cazzo. Chiedo asilo. Chiocciola. Ma no, chiocciola. Et. Chiedo asilo. Et. Chiocciola. Eh sì, poi radio24.com/, che sono robe che, vabbè, questo è un linguaggio. Allora dimmelo tu, dai. Chiedo asilo? E no, se no poi mi dicono hai voluto fare tutto tu perché tu sei la star. Invece io voglio che anche le comparse hanno loro. Allora, chiedo, allora fai tu, che così è più chiaro. Tu dici chiedo asilo e io mi occupo del resto. Chiedo asilo? At radio24.it. Per chi non capisse, al posto del let va bene anche chiocciola.